Oggi sappiamo che è la festa della mamma, quindi io ho pensato a una lettura in particolare che Proverbi 31. Ma uomini presenti, donne presenti, single presenti, è un messaggio che riguarda tutti. Quindi al di là che Proverbi 31 venga inteso spesso solo per una categoria che è madre, moglie, donna, prego che non ti senti escluso. Se ti senti escluso, allora vuol dire che non abbiamo capito niente. Perché in realtà quello che dice Proverbi 31 è il riassunto, tra virgolette, di tutto Proverbi, di tutta la scrittura di Proverbi, perché parla dell'integrità, della saggezza, del ricercare il timore del Signore. Quindi non sentirti escluso e rimani con il tuo cuore, la tua mente aperto ad ascoltare, va bene? È una fase molto delicata per come madre. Nel mio caso, io parlo di me come madre, moglie, sorella. Io ovviamente nella mia stagione adesso rappresento diversi ruoli: figlia, amica, guida. Quindi nelle mie sfide mi ritrovo in diverse situazioni di questo tipo. Magari tu invece ti puoi trovare come studente o come lavoratore, oppure stai attraversando una situazione particolare a livello fisico. In qualsiasi situazione tu ti trova, è una sfida che il Signore ti sta dando, ma non più grande di quella che puoi sopportare, perché lui rimane sovrano, l'abbiamo appena cantato. E quindi con Ioanna stiamo vivendo i terribili due, vengono detti, cioè che quando compiono 2 anni è diciamo, un momento che non mi devi dire di no, faccio come dico io. Poi lei ha un bel caratterino, cioè quando si mette in testa una cosa è quella.